24. La storia. Piero Camporesi, saggista e storico della letteratura italiana, ha scritto: Pellegrino Artusi ha fatto per l'unificazione nazionale più di quanto non siano riusciti a fare i promessi sposi di Alessandro Manzoni. Infatti Artusi contribuisce consapevolmente e caparbiamente alla realizzazione del suo sogno di una nuova Italia unita e coesa, scrivendo il suo ricettario, il primo ed unico libro della cucina italiana. All'inizio era lui, Pellegrino Artusi, il maestro della cucina e della lingua italiana, l'uomo che ha insegnato alle casalinghe di ogni ceto l'arte del mangiar bene. A rileggerle oggi, quelle sue laboriose ricette dense di consigli di vita e di economia domestica fanno quasi tenerezza, specie nell'epoca degli chef televisivi divenuti moderni imperatori del gusto. E allora il capolavoro di Pellegrino Artusi, La scienza in cucina, che raccoglie 790 ricette dai brodi ai liquori alle minestre, è un mondo tutto da scoprire. Sono di parere che il conoscere la vita di un uomo, anche dei più comuni come sarei io, quando esso è vissuto molto, specialmente in tempi burrascosi, possa riuscire di qualche giovamento agli altri. E perciò mi sono deciso, benché un po' tardi, di scriverla mia. Mi ingegnerò quanto più posso di essere imparziale ed esatto, tanto verso di me, quanto verso le persone che sarò costretto di portare sulla scena. Ma vista e considerata la mia barbogia età di anni 82, prego il lettore di un benigno compatimento. Se trova in questi appunti slegata la forma, provvisto il dettato e non corretta la frase, quindi ripeterò con l'ariosto. Né che poco io vi dia da imputar sono, se quel che posso dar tutto vi dono. Nell'autobiografia apocrifa immaginata da Folco Portinari, l'Artusi racconta: sono nato a Frampul, come noi chiamiamo Forlimpopoli, il 4 agosto 1820 da Agostino e Teresa Giunchi, onesti commercianti che mi misero nome Pellegrino, forse pensando a quello che sarebbe stato il mio istinto, simile al falco peregrinus che ama la quiete domestica ma è al contempo uno spietato predatore. Quando nacqui l'Italia non c'era. Sarebbe toccato a me curarmi di quella novità che chiamammo Italia. A mio modo, perché l'Italia era fatta su come un abito arlecchinesco, io pensai di mettergli indosso un abito più serio. Si trattava di un libro che chiamai La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Pellegrino Artusi è figlio di un commerciante di stoffe. Pellegrino viaggia in un'Italia divisa in una decina di stati diversi e sovrani e nei suoi viaggi incontra cuochi e ristoranti testimoni delle innumerevoli culture gastronomiche italiane e straniere. Stranieri d'Italia, si intende. L'Italia di quegli anni là è percorsa dagli impetuosi venti risorgimentali. Pellegrino è un appassionato sostenitore dell'Unità d'Italia. Appassionato, ma per il temperamento moderato. Così il moderato Pellegrino Artusi scrive sul suo impegno patriottico. A seguire sentiamo la voce di Giordano Conti, presidente della Casa Artusi di Forlimpopoli. Non di meno fui affiliato alla giovane Italia massiniana e mi bastava il cuore di gioia nel attraversare tante città in festa, in orgasmo, per le concepite speranze di unità e libertà. Ma oggi devo dire che fra gli uomini eminenti che hanno fatto l'Italia, quegli che è meno nelle mie grazie è proprio Giuseppe Mazzini. Non si può negare che col suo agitare e agitare continuamente non abbia contribuito a tener vivo il sacro amore della patria. Ma egli, tenendosi sempre in disparte, incitava la gioventù a insorgere e a gettarsi in imprese disperate col sacrificio inutile di giovani generosi. Beh, Artusi dal punto di vista politico non dà segni precisi né nella sua autobiografia, men che meno nel suo manuale. Però se lo devo leggere, se devo vedere la sua foto, il suo modo di pensare, penso che fosse un moderato, una persona che rispettava le altre persone, che voleva il buon governo, una persona onesta, che pagava le tasse. Ecco, qualcosa che diciamo forse è difficile riconoscere magari in un'Italia nella quale viviamo, ma devo dire che rappresenta l'Italia migliore, quell'Italia che comunque si doveva costruire anche con le buone maniere a tavola. Poi un fatto tragico spezza la serena quotidianità della vita del giovane pellegrino e della sua famiglia. È la notte del 25 gennaio del 1851. Una banda agguerrita e capace di delitti efferati irrompe nel teatro comunale di Forlimpopoli. Sono gli uomini del Passatore, un bandito che da 3 anni semina il terrore nella legazione pontificia. Nella stessa notte i briganti saccheggiano alcune abitazioni e tra le vittime delle più odiose violenze c'è anche Gertrude, la sorella di Artusi. Teatro Verdi, Forlimpopoli. Era la sera del 25 gennaio 1851. Sul palco si recitava la morte di Sisara. Alzato il sipario, al secondo atto della tragedia, ecco sul palcoscenico non più gli attori, ma gli assassini, coi tromboni spianati contro il pubblico. E al centro, il Passatore. Si sparsero nel paese. Mio padre ed io eravamo nei pressi del caminetto quando si sentì bussare, a quell'ora insolita. Mio padre, affacciatosi alla finestra, sente la voce del giovane Ruggero Ricci che dice: ci sono arrivati dei forestieri da Rimini che vorrebbero dello zucchero e del caffè. Mio padre prese una lucernina e andò ad aprire, ma quando vide entrare uno dopo l'altro gli assassini si svenne e cadendo di colpo sulla lucernina la ruppe. Nacque allora in casa mia una gran confusione. Gli assassini inveirono contro di me, che circuito e malmenato da 3 o 4 di costoro, sentì arrivarmi un colpo alla testa con la coccia della pistola mentre gridavano: ammastalo, ammastalo! Si volsero al saccheggio e con la scure spezzarono lampade, cassettoni e quanto gli si parava davanti, poi giù, giù, in bottega. E qui mi apparve una figura a sinistra. Dal volto raso, dai lineamenti non rozzi, da tutto l'insieme mi fu chiaro che costui non poteva essere altri che l'infame prete Valgibigli. Finito il saccheggio, corsero di sopra ancora alla ricerca delle sorelle, guardando dappertutto. La maggiore di esse, Gertrude, che era bella, da lineamenti delicati e gentili, dopo una lotta disperata con alcuni di loro, manomessa e contaminata, era fuggita sui tetti, colà vagando, spaurita. Da questo punto comincia un'era nuova per me e la mia famiglia. A leggere le parole di Artusi abbiamo sentito l'attore Degno Derni. Con la storia di Pellegrino Artusi continuiamo dopo la viabilità. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Mix 24, la storia. Bentornati a Mix24, stiamo raccontando la storia di Pellegrino Artusi, scrittore e gastronomo, padre riconosciuto della cucina italiana. Nel 1851, dopo l'irruzione della banda del Passatore nella casa di Forlimpopoli degli Artusi, la famiglia si trasferisce a Firenze, dove riprende l'attività di commercianti. A raccontare questa storia sono Laila Tentoni, vicepresidente di Casa Artusi, e giornalista Beppe Pirrone, Massimo Montanari, presidente del comitato scientifico di Casa Artusi. Artusi va a Firenze con tutta la famiglia e con 2 sorelle a carico, che era una bella soma, proprio nel 1851, dopo questo fattaccio noto del Passatore. E a Firenze trova quello che lui esattamente cercava: ricchezza, bellezza. E poi la Toscana del Granducato era molto diversa dalla Romagna delle legazioni pontificie, una madre matrigna scorticata dalla miseria, dalla malaria e forse anche dai preti. Il grano dei nostri nonni, basta arrivare ai primi decenni del Novecento, veniva colpito dal carbone. Erano annate terribili. La farina che si utilizzava per la panificazione era scura. Ci fosse stato il benessere, quel grano sarebbe stato destinato agli animali del cortile e invece occorreva mangiarlo. E quindi era un pane scuro, il pane nero. La farina di polenta, la polenta stessa, è stata terribile per i nostri progenitori. La pellagra, certo, ma che è stata combattuta nelle valli con l'anguilla, nella bassa Romagna con le rane, lungo la riviera romagnola di allora con il pesce, si è con i fagioli, certo. Trova qui quel mondo culturale che gli è mancato, frequenta ambienti importanti, ambienti culturali, conferenze, frequenta la biblioteca Magliabecchiana, ha occasione di conoscere anche tante persone, per esempio il Mattei, colui che ha inventato i cantuccini di Prato. Tra questi amici c'era sicuramente Olindo Guerrini, era un personaggio totalmente diverso, molto pieno di sentimento, passione, di rabbia, che erano sentimenti che Artusi non conosceva. Non c'è figura più lontana da quella dell'Artusi. Se Artusi è il piccolo borghese, liberale, molto distaccato dalle cose che gli succedono attorno, del piccolo popolo, Olindo è esattamente il contrario, un libertario, uno che ama sempre parlare e descrivere il popolino anche in maniera molto colorita. Un anarchico dei suoi tempi, uno molto interessato alle prime idee socialiste che giravano, uno molto anche cattivo, mangiapreti come vogliamo, per cui, e nonostante questo erano amici, si scrivevano, c'era una relazione da intellettuali fra di loro. E conosce Mantegazza, è un grande medico, antropologo, fondatore del Museo della Scienza e dell'Antropologia, e lo studioso della sessuologia, dell'igiene. Mantegazza fu uno degli sponsor più forti dell'operazione di Artusi, la sostenne proprio anche pubblicamente. Infelici e ipocondriaci, perché cos'altro siete se non questo, poveri? Meritate tutto il mio compatimento, imperocché non sapete svincolarvi dalle pastoie in cui vi tiene un'esagerata e continua paura. Mangiare per voi è una pena, e non solo per la scelta dei cibi, ma perché ora, temendo di aver mangiato troppo, or volendo correggervi con astinenza eccessiva, avete insonnia e la notte fate sogni molesti. Per voi non c'è medicina che valga, e un medico coscienzioso non potrà che dirvi: ma divagatevi, distraetevi, passeggiate spesso all'aria aperta, viaggiate in buona compagnia, vi guarirete. Cercate di abitare case sane, con molta luce, le ventilate, dove entra il sole, fuggono le malattie. Santa bicicletta, che ci fa provare la gioia di un robusto appetito. L'esercizio conserva la vita, accende il caldo, il vigore naturale, schiuma superchie, cattive materie e umori, fortifica ogni virtù del corpo e dei nervi, è necessario a vecchi, utile a giovani. Socrate, si legge, in casa ballava e saltava per esercitarsi. La temperanza e l'esercizio del corpo sono dunque i due perni su cui la salute si aggira. 573. Biscotti della salute. State allegri dunque, perché con questi biscotti non morirete mai o camperete gli anni di Matusalemme. Infatti io, che ne mangio spesso, se qualche indiscreto, vedendomi arzillo più che non comporterebbe la mia grave età, mi dimanda quanti anni ho, rispondo che ho gli anni di Matusalemme, figlio di Enoch. Farina grammi 3,50, zucchero rosso grammi 100, burro grammi 50, cremor di tartaro grammi 10, bicarbonato di soda grammi 5, uova numero 2, odore di zucchero vanigliato, latte QB. Mescolate lo zucchero alla farina, fate a questo una buca per porvi il resto e infridetela con l'aggiunta di un poco di latte per ottenere una pasta alquanto morbida, a cui darete la forma cilindrica un po' schiacciata e lunga mezzo metro. Il giorno appresso tagliateli in forma di biscotti, di cui ne otterrete una trentina, e tostateli. Il patriota, scrittore e medico Paolo Mantegazza è un convinto assertore di una vita attiva e sana, la sola capace di assicurare una vecchiaia serena. E Artusi sostiene con entusiasmo questa teoria. Ascoltiamo il racconto di Laila Tentoni. Artusi è uno scapolo impenitente, quindi si occupa di cosa? Di cucina, di cultura, di lettere. In realtà lui è un letterato, quindi tutta questa cultura alla rovescia su un manuale di cucina, ma è qualcosa che è nelle sue corde, come Michelangelo disegna, lui cucina e gli amici lo invitano praticamente di mettere queste competenze a servizio di tutti gli italiani. Lo farà. Il 3 febbraio 1865 Vittorio Emanuele II entra a Firenze, capitale d'Italia. Il regno sabaudo ha unito l'Italia intera, eccetto i territori dello Stato Pontificio, e Firenze festeggia la nomina a capitale d'Italia con grandi manifestazioni popolari. Artusi si sposta al nuovo indirizzo di via Massimo d'Azeglio, dove risiederà fino alla morte. È qui che nel 1891 pubblica a sue spese La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Manuale di cucina e raccolta di ricette, un vero e proprio manuale della cucina italiana. Forse non pensava di diventare l'Artusi, L'apostrofo Artusi, ma certamente pensava che quel libro poteva essere un libro buono, un buon libro utile per le donne italiane che stavano in cucina. E forse sentiva, insomma, il richiamo di questo paese che da qualche decennio si era unito e che aveva bisogno di uscire dai manuali coi francesismi, per avere un manuale finalmente italiano della cucina italiana. Tagliatelle col prosciutto, ricetta 69. Le chiamo tagliatelle perché, dovendo essere cotte nell'acqua e condite asciutte, va tirata la sfoglia alquanto più grossa e tagliata a strisce più larghe di taglierini. Si tratta sempre di un impasto d'uova e farina, senza punta d'acqua. Al tempo delle salsicce potete sostituirle, ben sminuzzate, al prosciutto, trattandole della stessa ghisa. Chi ama il gusto del burro crudo ne serve la metà per metterlo nell'intingolo quando lo ritira dal fuoco. Anche gli spaghetti sono buoni conditi con le salsicce, nella stessa maniera. Comunque Pellegrino Artusi, io ritengo che ai suoi tempi sia stato veramente un grande. E quindi un'unità d'Italia anticipata. Pellegrino Artusi è un romagnolo puro sangue, ma quando va a Firenze si rende conto che anche la cucina ha bisogno di una lingua. Giovanna Frosini, dell'Accademia della Crusca di Firenze, ci spiega il valore dell'opera di Artusi dal punto di vista linguistico. Quello che lui ha a cuore è un principio oggi fondamentale, cioè il principio della comunicazione. Bisogna farsi intendere, bisogna farsi capire. Thank you. a cui Artusi pensa è il pubblico nuovo, dell'Italia nuova, dell'Italia che si è unita da poco. Per questo pubblico ci vuole una cucina nuova, ma ci vuole soprattutto anche e soprattutto una lingua nuova. 455 Cacciucco. Cacciucco, lasciatemi fare queste due chiacchiere su questa parola, la quale forse non è intesa che in Toscana e sulle spiagge del Mediterraneo, per la ragione che nei paesi che costeggiano l'Adriatico è costituita da voce brodetto. A Firenze invece il brodetto è la minestra, che si usa per Pasqua d'uova, cioè una zuppa di pane in brodo legata con uova frullate e agro di limone. La confusione di queste e simili termini fra provincia e provincia in Italia è tale che poco manca a formare una seconda Babele. Dopo l'unità della patria, mi sembrava logica conseguenza il pensare all'unità della lingua parlata, che pochi curano e molti osteggiano. Forse per un falso amor proprio e forse anche per una lunga e inveterata consuetudine ai propri dialetti. Con la storia di Pellegrino Artusi continuiamo dopo la pubblicità. Allora, il gastronauta l'ho convocato io, Barisoni l'ho convocato io, Cruciani e Parenzo ci sono, e effetto notte, effetto giorno, ma tutti convocati, siete tutti convocati tutti i giorni, io centa! Non sono abituato a vederti senza parlarti al telefono e quindi sono abbastanza emozionato. Se vuoi ti rifaccio l'effetto tutti... del telefono che non... È meglio così. Pierluigi Pardo inizia questo finale di stagione pirotecnico in cui si assegneranno tutti i titoli. Chissà e chi ovviamente... vince lo scudetto, per esempio, non lo so, ho dei grossi dubbi. 14.05 tutti i giorni a Rudy Alverdi, tutti convocati. E lo scopriremo. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. Mix 24, la storia. Bentornati, oggi a Mix24 stiamo raccontando la storia di Pellegrino Artusi, padre riconosciuto della cucina italiana, autore di un libro che rivoluziona il linguaggio della cucina. Sentiamo Massimo Montanari, presidente del comitato scientifico di Casa Artusi. Nel momento in cui Artusi comincia a lavorare al suo libro, e ci lavora per 20 anni, gran parte del linguaggio della cucina era francese, un'altra gran parte era dialettale. Artusi, con un'operazione che Camporesi definì manzoniana, cercò di portare l'italiano in cucina, cioè di definire anche un linguaggio gastronomico comprensibile alla maggior parte degli italiani. In alcuni casi Artusi adatta le parole straniere o ne crea di nuove. Ecco, il caso di Balsamella è un caso molto bello, molto significativo. La parola ovviamente era francese, bechamel, invece Artusi la adatta in un altro modo. È una delle sue creazioni personali, una delle più belle, che è la parola balsamella, in cui il termine francese viene incrociato con il termine italiano balsamo. Ricetta numero 137, balsamella. Questa salsa equivale alla bechamel dei francesi, se non che quella è più complicata. Ponete al fuoco in una casseruola una cucchiaiata di farina, un pezzo di burro del volume di un uovo. Servitevi di un mestolo per risciogliere il burro e la farina insieme e quando questa comincia a prendere il colore nocciola, versateci a poco per volta mezzo litro di latte del migliore, girando continuamente il mestolo finché non vedrete il liquido condensato come una crema di color latteo. Questa è la balsamella. Quanto all'attrezzatura della lingua e degli interessi letterari, Artusi si era preparato da molti anni a quel libro. La testimonianza di questo lungo apprendistato, che è appunto un apprendistato culturale in senso lato, ma più specificamente in senso letterario e proprio in senso linguistico, si ha nelle sue carte e nella sua biblioteca, in cui si trovano attenti e minuziosi spogli delle opere di lingua e di letteratura che in tanti anni Artusi leggeva, studiava e compulsava. Io dico sempre che Artusi era un lettore attentissimo, con la matita in una mano e il vocabolario nell'altra. Il linguaggio d'Artusi è un linguaggio che rappresenta la vera forza del libro, ed è il toscano parlato, è quello ironico, è quello del Giusti, è quello della tradizione teatrale. Non dimentichiamo che il primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, in realtà parlava francese e dialetto piemontese. Quindi Artusi sostanzialmente insegue consapevolmente l'obiettivo di dare agli italiani una buona lingua, e quindi è per questo che il libro dell'Artusi è sostanzialmente il romanzo della cucina italiana. Questo libro è il romanzo della cucina, in cui cioè la cucina è raccontata, non è soltanto un insieme di istruzioni tecniche, ma vuole essere un libro più generale per una classe borghese di una nazione nuova che si va formando. Questo spiega la presenza di tutto un apparato di introduzioni, di spiegazioni che Artusi mette all'inizio, prima che inizino le ricette vere e proprie, con la famosa ricetta del brodo, che è la prima ricetta e che ha questo straordinario inizio, lo sa il popolo, il comune e così via, no? Dove proprio si dà la misura di questa lingua così affabile, così oggi diremmo amichevole, no? Così accostabile, usata dall'autore. Ricetta 1, brodo. Lo sa il popolo e il comune che per ottenere il brodo buono bisogna mettere la carne ad acqua ghiaccia e far bollire la pentola ad agino e che non trabocchi mai. Se poi invece di un buon brodo preferiste un buon lesso, allora mettete la carne ad acqua bollente, senza tanti riguardi. È noto pure anche che le ossa spugnose danno sapore e fragranza al brodo, ma il brodo di ossa non è nutriente. Si è sempre creduto che il brodo fosse un ottimo ed omogeneo nutrimento, atto a dar vigore alle forze. Ma ora i medici spacciano che il brodo non nutrisce e serve più che ad altro a promuovere nello stomaco i sughi gastrici. Io, non essendo giudice competente in tal materia, lascerò ad essi la responsabilità di questa nuova teoria che ha tutta l'apparenza di ripugnare al buon senso. Ricetta 125, salsa di pomodoro. C'era un prete in una città di Romagna che cacciava il naso per tutto e, introducendosi nelle famiglie, in ogni affare domestico voleva metterlo zampino. Era, d'altra parte, un onest'uomo e, poiché dal suo zelo scaturiva del bene più che del male, lo lasciavano fare. Ma il popolo arguto lo aveva battezzato Don Pomodoro per indicare che i pomodori entrano per tutto. Quindi una buona salsa di questo frutto sarà nella cucina un aiuto pregevole. Fate un battuto con un quarto di cipolla, uno spicchio d'aglio, un pezzo di sedano lungo un dito, alcune foglie di basilico e prezzemolo a sufficienza. Conditelo con un poco d'olio, sale e pepe, spezzate 7-8 pomodori e mettete al fuoco ogni cosa insieme. Mescolate di quando in quando e allorché vedrete il sugo condensato come una crema liquida, passatelo dallo staccio e servitevene. Questa salsa si presta a moltissimi usi, come vi indicherò a suo luogo. È buona con l'esso e ottima per aggraziare le paste asciutte condite a cacio e burro, come anche per fare il risotto al numero 77. Ancora alla fine dell'Ottocento, quando Artusi scriveva, la pasta era un cibo più tipico del sud che non del centro-nord. Non era assente, ma era i mangiamaccheroni erano gli uomini del sud. Artusi promuove la pasta a cibo nazionale, lancia il pomodoro come salsa tipica della cucina italiana. Artusi lancia la pasta come elemento tipico della cucina italiana. In questo senso lavora anche sul futuro. Lui stesso, in uno degli aneddoti autobiografici che inserisce nel suo manuale, si autodefinisce ghiotto di pasta. A me piacciono molto gli spaghetti, dice. Io sono un grande mangiatore di spaghetti, io sono un grande mangiatore di pasta. Io credo che questo non è solamente un aneddoto, ma è una sorta di testimonianza promozionale in favore di un prodotto. Quando nelle sue corrispondenze Cavour parla della conquista di Napoli come di una mangiata di maccheroni, non è solo l'imperialismo di Savoia che cala sul regno di Napoli, ma è anche il desiderio in qualche modo di assumere sul regno d'Italia una cultura che prima era solamente meridionale. Un libro, quello di Artusi, scritto per una classe sociale che solo allora entrava a pieno titolo nella storia del paese, la borghesia, il ceto medio, coloro che conoscevano l'italiano e che lo parlavano e che lo insegnavano. Sentiamo ancora Massimo Montanari, presidente del comitato scientifico Casa Artusi. Artusi vuole tirarsi fuori da una consuetudine tipica della cucina pomposa, che amava intitolare le ricette a qualche personaggio famoso, a qualche evento, perché vuole dare un'idea domestica, familiare, popolare, fra virgolette, della sua cucina. Dico fra virgolette perché è un popolo molto borghese, molto meno contadino, molto meno operaio, però è una dimensione popolare, familiare che lui vuol dare alla sua cucina, e io penso che questo sia in realtà il segreto del successo di Artusi, cioè il fatto che lui ha scritto questo manuale di cucina pensandolo come un ricettario per gli italiani, ma questo non è solamente un ricettario per gli italiani, è anche un ricettario scritto dagli italiani in qualche maniera. 671, Padding Cesarino. Ve lo do per un buon ragazzo questo cesarino, e che lo vendo col nome strano con cui lo comprai da un giovane e piuttosto bella signora, religiosa ed onesta, uno di quei tipi che, senza volerlo, sono capaci per leggerezza di compromettere le persone che le avvicinano. Midolla di pane, grammi 200, zucchero grammi 250, altro zucchero per lo stampo circa grammi 100. Uva Malaga, grammi 125. Uva su. Il ricettario di Artusi è un libro scritto rispetto all'esperienza diretta. Artusi è un viaggiatore, infatti noi in archivio abbiamo tanti passaporti, quelli che servivano ad Artusi prima del 1861 per andare a Trieste, per girare, eccetera. Quindi questo è un libro che nasce per esperienza diretta e per esperienza altrui. È stato fondamentale il treno per questo libro, come poi, dopo le prime edizioni, è stato fondamentale il servizio postale. Artusi fece stampare questo libro a sue spese e lo distribuiva e lo vendeva anche direttamente. Per questo fece mettere sulla copertina il suo indirizzo di casa. Oggi sarebbe l'equivalente di un indirizzo di posta elettronica. Ecco, infatti è uno dei primissimi esempi di un libro interattivo. Allora, i lettori e le lettrici cominciarono a scrivere a casa di Artusi, all'indirizzo di Piazza d'Azeglio 25, suggerendo ricette, correzioni, modifiche. Il successo del libro ha molti tratti in comune con i fenomeni letterari del nostro tempo. La prima edizione del 1891 fu stampata privatamente dall'Artusi e spedita ad alcune centinaia di conoscenti e agenti del mestiere. In seguito raggiunge la 15ª edizione con Artusi ancora in vita. L'arte del mangiar bene in pochi anni fu consultato da decine di migliaia di lettori. Il primo esempio in Italia di un bestseller figlio del passaparola. Ripartiamo da qui, dopo la viabilità. L'Europa è sempre più presente nella vita quotidiana dei giovani italiani. Come migliorare le cose? Come rendere l'Italia un paese inserito nel flusso di circolazione dei talenti? Vogliamo sapere la vostra! Giovani Talenti è alla ricerca di 4 under 40 da inviare all'Europarlamento di Strasburgo e altrettanti cui consegnare un pass per visitare il padiglione europeo a Expo 2015. Come fare? Basta sintonizzarsi ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Tutte le settimane vi proporremo uno spunto di riflessione su cui potete inviarci una proposta scritta in 140 caratteri via email. Fino al 16 maggio cogli l'occasione per dimostrare il tuo talento e lanciare proposte generazionali. L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato con Giovani Talenti. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. La scienza in cucina, l'arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi, diventa dunque un best seller dei suoi anni. Tra la prima edizione del 1891 e l'ultima del 1911, il numero delle ricette passa da 475 a 790. Un incremento che avviene attraverso gli apporti dei lettori, che chiedono spiegazioni ma danno anche consigli e propongono nuove ricette. Sentiamo ancora Laila Tentoni e Massimo Montanari di Casa Artusi. Lui non ha troppa fiducia nei libri di cucina e tutto sommato lo dice anche in maniera molto ironica. Questa è un'altra ragione del successo del manuale di Artusi. Dice, insomma, non abbiate troppa fiducia, forse neanche nel mio. In realtà tutto va guadagnato sull'esperienza. Il miglior maestro è la pratica. L'importanza di questo manuale sta ovviamente nella qualità del contenuto, ma io credo che stia anche nel fatto che questo contenuto è una costruzione collettiva degli italiani. Il progetto di Artusi è quello di dare valore alle cucine dei vari territori, di esaltare la diversità, e questo per me è il modo bello, giusto di fare l'Italia. Nonostante abbia vissuto 60 anni della sua vita a Firenze, nel suo testamento Pellegrino Artusi lascia quasi tutto alla sua città d'origine, Forlimpopoli. Un tesoro che la sua terra ha messo a frutto creando una forte identità intorno alla figura di Artusi. Per cui a Forlimpopoli c'è una biblioteca che si chiama Pellegrino Artusi perché nasce dai libri di Artusi. C'è la casa di riposo perché nasce da questo lascito. Pellegrino Artusi ce l'abbiamo solo noi, è un personaggio straordinario, un personaggio ormai conosciuto in tutto il mondo, il suo libro lo stanno traducendo un po' in tutte le lingue e ha fatto un'operazione importantissima di valorizzazione delle cucine di casa, delle cucine dei territori e quindi ha promosso una cultura importante legata alla cucina. Poi c'è anche, come dire, un progetto sociale, etico, che non so quanto fosse presente in Artusi, è molto presente in casa Artusi e noi lo inseguiamo quotidianamente. Abbiamo introdotto un concetto che è quello di raccontare e mettere in luce l'esperienza delle cucine domestiche. Vorremmo e ci piacerebbe molto che ognuno di noi, da italiano, evidenziasse quello che è la cucina italiana, ma ognuno di noi quando va all'estero, quando va in un paesino di montagna, quando andasse a ricercare proprio quelle peculiarità che fanno di quel paese, di quella cultura, un cibo in qualche modo. Noi in casa Artusi pensiamo in effetti che sul piatto ci deve essere la nostra idea del futuro, cioè quello che noi mangiamo significa esattamente quello che noi siamo. Ricetta numero 264, pollo con la marsala. Tagliate il pollo a grossi pezzi e mettetelo in una casseruola con un battutino di cipolla e un pezzetto di burro. Conditelo con sale e pepe e quando sarà ben rosolato aggiungete del brodo e tiratelo a cottura. Passate il sugo, disgrassatelo se occorre, rimettete il pollo al fuoco con un po' di marsala, levandolo appena abbia ripreso il bollore. Alessandro Borghese, cuoco e conduttore televisivo, attualmente in onda su Sky 1 con il programma Alessandro Borghese 4 ristoranti. Chi è per lei Pellegrino Artusi? Beh, innanzitutto buongiorno. Pellegrino è sicuramente uno dei padri fondatori della cucina italiana. Cosa le ha insegnato? Uno di Forlimpopoli e grande gastronomo. Cosa mi ha insegnato? Allora, diciamo che il Pellegrino Artusi è oggi come oggi uno dei tanti libri che noi cuochi, a cui noi cuochi attingiamo, come il Carnacina, come può essere insomma i Tempi del Cucchiaio d'Argento, che sono arrivati dopo Artusi. Lui fu un po', diciamo, il primo a mettere su carta la cucina italiana, anche se non una cucina regionale. Comunque lui era prediletto di una popolazione un po' più abbiente, quindi faceva largo uso di carni pregiate, di tartufo, di uova, in un'Italia che ai tempi comunque era, insomma, faceva fatica ad andare avanti, c'era ancora tanta povertà, quindi lui era dedicato, diciamo, a una classe abbiente. Se lo andiamo a vedere oggi come oggi, che noi che usiamo tecnologie molto moderne per la cucina, ingredienti di tutti i generi, può sembrare un testo abbastanza arcaico, ma io ci faccio tanto affidamento, spesso e volentieri, se devo andare a ricercare una preparazione particolare. Per esempio, cosa prendi dal libro di Pellegrino Artusi? Tutto ciò che sono un po' delle cotture che si fanno ancora a brace, allo spiedo, in un fuoco fatto a carbone, perché comunque quel genere di cotture che ha descritto l'Artusi sono con quel genere di tecnologie là, cioè quello che sono, c'era quelle, quei tempi. Sono quelle. La cucina di Artusi è una cucina semplice del mondo contadino, basata su materie prime, ma oggi funziona ancora? Sì, anche se la cucina di Artusi tanto semplice non è, nel senso che lui, per esempio, era uno che non amava gli ortaggi o le verdure, era uno che predileva la carne, il pesce. Quindi sì, di una semplicità nei modi di cottura, ecco, non ma tanto meno nelle materie, negli ingredienti, sì. E quindi cosa c'è di diverso rispetto allora rispetto ad oggi? Beh, sicuramente la tecnologia che usiamo in cucina, cioè quindi i tipi di cottura, la cottura al vapore anziché una cottura sottovuoto, anziché una cottura fatta con forni a tecnologia, no, tutto questo non c'era a quei tempi. Quindi era una cucina di rimedio di casa. Pellegrino inizialmente ha iniziato a fare questo libro, a scrivere questo libro usando, insomma, la cucina della sua governante, la cucina delle signore che conosceva, che facevano cucina casalinga. Sì, gli inviavano. Quindi anche le ricette, no? L'abbiamo raccontato. Certo. Ma oggi cosa fa che una ricetta diventi famosa, popolare? Ma oggi abbiamo un grande strumento che sono i social network, internet. Ai tempi non c'erano, quindi spesso e volentieri se una ricetta diventa popolare può essere per il fatto che sia una grande ricetta, quindi buona, che ci sia un grande passaparola, che ci sia un vasto pubblico che la assaggia, che la vede, che la premia. Quindi poi i social hanno aiutato tanto alla divulgazione della cucina. Questa lui è stato un pioniere in questo, perché lui è stato assolutamente un pioniere, sì. Assolutamente, lui iniziò a vendere i suoi libri a casa sua. E poi fu il passaparola, cioè, anche lì. E poi fu il passaparola, piano piano ci fu un interesse e poi aggiunse anche tante ricette. Non mi ricordo con quante ricette iniziò, tipo io lo consulto, poi l'ho letto tanti anni fa, ma iniziò con un 400, un 300 ricette, che poi negli anni nelle ristampe aggiunse altre ricette fino a diventare un volume enorme. Alessandro Borghese, il 15 aprile parte la seconda edizione di Junior Masterchef in onda su Sky 1, che la vede come giurato insieme a Lidia Bastianich e Bruno Barbieri. Esatto. È da bambini, sono stata brava, è da bambini che si avvicina alla cucina? Che ci si avvicina alla cucina? Assolutamente sì, assolutamente sì, dove si iniziano a capire un po' i segreti, i sapori, ci si forma il palato da ragazzi, no? Da bambini, quindi è molto importante iniziare da piccoli. I piccoli hanno una grande fantasia, che c'è bisogno in cucina di una grande fantasia, e poi si inizia con la manualità. E cosa la colpisce di più dei bambini? Beh, dei bambini colpisce la loro innocenza nel vivere la vita quotidiana, cioè nel senso anche il fatto che loro comunque hanno una creatività senza freni, senza limiti, quindi abbinamenti azzardati, hanno questa innocenza nell'assaggiare, nel provare le cose, perché per tutto per loro è una sorpresa, no? Quindi loro stanno imparando, noi cosa facciamo? Prendiamo le caratteristiche di questi bambini e cerchiamo di esaltarle. C'è qualche bambino che ha un palato sopraffino, l'altro che invece ha un gusto per l'estetica molto sviluppato, Quindi noi prendiamo le caratteristiche di ognuno di loro e cerchiamo di fargli fare un percorso. Lei si è formato viaggiando sulle navi da crociera, faceva appunto il cuoco girando il mondo, poi New York, Londra, Parigi, ma oggi uno chef non può prescindere dalla contaminazione delle cucine. Assolutamente no, perché la cucina è come una forma d'arte, cioè bisogna di viaggiare, viaggiare allarga la mente, allarga le idee, viaggiare significa anche viaggiare in un mercato vicino casa, vuol dire andare in una pescheria, vuol dire conoscere i prodotti e la materia prima. Senza tradizione non si può innovare, se non hai una base solida della tradizione non puoi poi innovare, quindi una conoscenza della materia prima e delle tecniche di cucina che poi si imparano con il tempo, con la gavetta, con gli anni. Che cos'è che però è assolutamente italiano nella sua cucina? Ah beh, la pasta. La pasta, il parmigiano, l'olio extravergine, insomma, i capisaldi della cucina italiana sono sicuramente quelli e tanti altri. La mia base è una cucina italiana, che poi ci possa essere qualche contaminazione, il divertimento poi di fare dei piatti fusion e di aggiungere delle culture diverse gastronomiche alla nostra, ma comunque la base è quella della cucina italiana. Io sono un amante della tradizione, cioè il vero lusso è la semplicità. Alessandro Borghese, ci dà una ricetta per Pasquetta? Vi do una ricetta per Pasquetta, vi do un fantastico raviolone ripieno di carciofi con della santoreggia, adesso è il periodo di erbe fresche, sta iniziando ad arrivare, quindi una santoreggia spadellata in padella con un po' di aglio e un po' di pecorino stagionato in grotta. Grazie, buon appetito direi. A voi. Grazie.